Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right. It's the return of the international dancehall sound, coming back straight from the underground. Voglio l'aria di mare, sole sulla faccia. Tornerò a cantare sotto il suo balcone quando lei si affaccia. Questa notte finisce, che facciamo tardi e torniamo a casa a piedi. Toccacciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri. Il suono delle tue risate, il primo giorno di una nuova estate. Ho voglia di fare tardi la sera, karaoke Guantanamera. Voglia di ballare un reggae in spiaggia. Voglia di riaverti qui tra le mie braccia, in una piazza piena, per fare tutto quello che non si poteva. Tu ridi, che poi mi innamoro davvero. Tu sei tutto ciò che volevo. Stanotte facciamo tardissimo, la luna lassù. Il suono delle tue risate, il primo giorno di una nuova estate. Ho voglia di fare tardi la sera, karaoke Guantanamera. E non va. In spiaggia.